Va ora in onda Mi sta stretto lo stivale, programma di Cremona Strazzullo, dirige il maestro Corrado Parisi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da Riccardo Cremona. Da Alessio Strazzullo, quanti applausi, quanti applausi. Mi sta stretto lo stivale, Radio 20. Sì, abbastanza, a te? A me no, sta abbastanza comodo. Siamo sotto le elezioni, che comodo, qua, stringe. C'ho il piede piccolo. Ho capito, ma io ho dei calli giganteschi. Guà, già stiamo a 50 minuti, ci dicono dalla regia. Scherzo, è una burla. Leggi bene i messaggi dalla regia. Allora, formazione classica, salutiamo in regia Corrado Parisi. Ciao Corrado. Mamma mia, mamma informissima. Gli sviluppini, diciamo, alle macchine abbiamo fatto Zabaglio, le macchine, è un computerino serio, ma pur sempre un computerino. Le macchine. Tu però sei scocciante, è un modo di dire le macchine. Oggi è così. Oggi c'è il ciclo. Tutto a posto? Io benissimo. Come andiamo? È andata una buona settimana, tu? Guarda, abbastanza, non sono almeno influenzato e pieno di raffreddore come prima, quindi mi sentirete di meno tirare su col naso e soffiarmi il naso durante Ringrazio. No, ringrazio soprattutto le mie difese immunitarie che mi hanno abbandonato per una settimana e mi hanno ripreso. Questa cosa è bruttissima. Che... Senti, partiamo subito con la prima notizia. Dimmela. Perfetta per te che sei un famoso omofobo, un famoso gay in ascolto. Riccardo Cremona è omofobo. C'è poco Ciao, da ragazzi. Fare, odia gli uomini, odia il contatto con gli uomini. Ciao ragazze. Ciao, esatto. Sto scherzando. Mi sembra abbastanza intelligente. Dai. Che problemi hai con gli omosessuali? Allora, specifichiamo. Non ho problemi con gli omosessuali. Ho un problema con gli uomini, nel senso che il contatto fisico fra uomini mi fa un po' schifo. Ok, Freud penso che... Ma innanzitutto non solo Freud, penso tutte le persone che ne sanno qualcosa di psicologia potrebbero addirittura darti dell'omosessuale latente. Allora, secondo me la psicologia è una gran stronzata. Ok, e questa è perfetta, abbiamo amici che studiano psicologia. No, perché soprattutto Freud, che gli dico che ho sognato che stavo affogando in un mare, in un oceano, e mi aggrappavo a un tronco, per lui sono omosessuale. Il tronco è il cazzo, scusami per... quale psicologia? Per quale cosa? Per quale idea? Non lo so, evidentemente Freud aveva i suoi. A che cosa dovevo attaccarmi? La vagina? Per non dire che sono omosessuale. Per sopravvivere. Ogni cosa è omosessuale. Vabbè. Andiamo avanti. Il contatto in fra ogni uomini caso, mi dà fastidio. Tu sei solito, diciamo, offendermi, mi prendi in giro per certe mie passioni, vabbè. Tipo il tè o cose del genere, per cui mi accusi di essere omosessuale. Sì, come la regina Elisabetta. No, ti accusi di essere donna, no. Non omosessuale. Bene, da adesso in poi. Sì. Se mi accusi di essere gay. Sì. E lo fai per offendermi, la Cassazione può avere qualcosa da ridire. Ah, la notizia infatti è che la Cassazione... Dare del gay a qualcuno con l'intenzione di denigrarlo è reato, così si esprime la Corte di Cassazione. Quindi da oggi in poi non si potrà più, è offesa dire dare del gay a qualcuno, è un'ingiuria come qualsiasi altra ingiuria che è prevista nel nostro... ovviamente se fatto per offendere. Certo, non come informazione. La storia è semplice, praticamente c'è un 71enne che offende in una lettera l'interlocutore, diciamo, appunto il destinatario. Un'offesa scritta che appunto riportava il suo essere gay, una preferenza sessuale che si faceva notare nella missiva, che era chiaramente emersa durante una vacanza in montagna trascorsa dall'interlocutore con un marinaio. Nello scritto si faceva riferimento anche a un allontanamento subito dal destinatario da un club sportivo frequentato da ragazzini. Oltre a essere, diciamo, accusato di essere gay, c'è una discriminazione proprio. Esatto, veniva accusato addirittura di essere pedofilo, e quindi la Cassazione è giusto così, perché sì, comunque gay dato per ingiurie è un'offesa. Sì. Quindi è giusto, cioè non è semplicemente un appellativo, è proprio quindi un'offesa. Stai attento, No, io ti do della ragazza, è diverso. Della ragazzina. C'è qualcosa di diverso. Tra l'altro a me non dispiace. Perfetto, bevi il tuo tè, alla vaniglia. Sei così un bel ragazzo. Non mi piace, già ho detto il contatto fra uomini. Vabbè, ma... Tu da fuori sembri un uomo, poi dentro sei donna. Va bene. Grazie per avermi parlato in questo modo davanti a tutti i nostri ascoltatori. Dai, alla finita stiamo scherzando, sei uomo, sei fidanzato, non è in dubbio la tua sessualità. sessualità e in dubbio la tua moralità. No, ma una spiccata sensibilità femminile, ecco. Puoi prendermi in giro quanto vuoi, non mi offenderò. No. Come le vere donne che non si offendono quando le prendi in giro. Bravo, sei bravissimo, ma hai imparato a farlo tutta da sola. Hai visto? Allora, notizia mia. Allora, l'Italia è il primo paese che ha preso una iniziativa nei confronti dei film in 3D e in particolare gli occhialini. Che schifo questo, allora, 3D, guarda, io non sono proprio d'accordo. Pure a me, non ho mai visto un film in 3D, forse quando ero piccolo. Io sì, a Parigi ero molto piccolo, ho visto, uno spettacolo in 3D con la buon'anima di Michael Jackson. Ah, la buon'anima di Michael Jackson in 3D? Sì. Ah, quando eri piccolo? Sì, lui già era abbastanza 2D perché già aveva iniziato a scolpirsi la non faccia. Non aveva più il naso. A tagliarsi il naso e a non aveva togliersi profondità. Le guance. Michael Jackson in 2D sul canale 5. Sì, sì, sì, no, questo 3D non lo so, io ho le mie perplessità. Io sono contrario, poi non mi piacciono questi occhialini, uno rosso e uno blu, non ho mai capito come faccio a vedere in maniera normale in questo modo. Comunque l'Italia. Italia, sì. Fammi dire, il ministro della salute Ferruccio Fazio FF, ha deciso praticamente con un'ordinanza che gli unici occhiali in 3D che potranno essere usati sono quelli della Ray-Ban. No, questa è una buona iniziativa, forse la Ray-Ban potrebbe rubarcela. Ma figurati, sono quelli monouso. Questo sì. Perché il problema del 3D è, oltre a essere un problema igienico, soprattutto perché giustamente io lo passo a te, tu lo passi a me, abbiamo tutti e due la congiuntivite. Io che ne so quello che c'ha negli occhi. È pericolosissimo, negli occhi, tante malattie. E poi è un problema anche per i bambini e chi soffre di emicrania, perché la visione stereoscopica, questo è l'effetto che hanno gli occhiali 3D, che è una forte emicrania, perché giustamente tu non sei abituato a vedere in un determinato modo. È chiaro, ti metti gli occhiali che cos'è questa storia? Che ti sballano tutto e impazzisce. È come se adesso mettessi gli occhiali per miopia 15 e gradi e 22 gradi. Sei immediatamente in Matrix. Bravissimo. E quindi non quindi non per la nuova legge... Boicottiamolo sto 3D, ma quando è che si è vista questa storia che uno deve andare al cinema e deve vedere i mostri che davanti, ti vengono in faccia? Ma che te ne frega, su uno schermo è così bello. Dai, e tra l'altro l'arte noi del cinematografo. L'arte del... Sì, i fratelli Lumiere. Dai. Non avevano pensato al 3D. Tra l'altro noi siamo i primi, Forse non avevano pensato neanche al colore, i fratelli Lumiere, adesso il 3D. Andiamo troppo velocemente noi siamo su certe cose, fermiamoci. I primissimi al mondo. Siamo i propulsori di questa nuova campagna contro retrogradi, il 3D. Retrogradi, come sempre, sì, in questo caso giustificati però, perché il 3D, torno a dire che mi fa schifo. Bravo, adesso fa schifo il 3D. E se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa in merito... Siete invitati ufficialmente alla dalla regia si vuole aggiungere qualcosa? Invitiamo James Cameron, autore di Avatar, a venire qui a parlare del 3D. Io sono sicuro che Cameron, se avesse avuto la possibilità di fare anche Titanic in 3D, ci faceva venire le mosse a tutti quanti. Madonna, ti rendi conto Titanic in 3D? Deve essere uno spantimento di stomaco. Ma soprattutto se ci trovavamo in quel momento in cui c'era l'amplesso tra quella Kate, macchina che s'appannavano. Kate. Come si chiamava lei? Rose? Rose, bravo, vedo che quante volte l'hai visto tu da brava ragazza. Ma già dalla regia ci fanno notare che il porno in 3D però ha i suoi... Non ne parlammo, il film di Tinto Brass vuole farlo in 3D. Avatar. Ma anche là, in questo senso, sono molto più favorevole, ancora di più, agli occhiali monouso. Sì, lì poi... un film in 3D... Che cosa ne sappiamo che cosa c'hai negli occhi? Soprattutto cosa hai fatto durante il film porno Che ne sappiamo con quelle manine che c'hai sporcaccissime, che ti togli gli occhiali, che malattie trasmette. Io sono contrario anche al porno 3D, perché già ho detto, quello della sensazione di stare nel film, finché vedi una bella donna è piacevole. Pensa che c'è gente che è contraria al porno. Ma se poi vedi che gente che invece, diciamo così, un po' di sodomia non è così piacevole. Io ho pagato, non vorrei sentirmi preso per il culo in tutti i sensi. Vai, finiamo la notizia e vai tu, ti apro, vai. Allora, questa è una notizia importante. Un po' più seria. Secondo te, l'Italia che cosa esporta nel mondo? Pasta? Pasta, sì. Mandolino, i pomodori di San Marzano, quelli là lunghi, sì, rossi. Quella a fiaschetto. Sì, a fiaschetto. Pasta, pizza, mozzarella. Ma mozzarella. Mandolino. Di bufali. Spaghetto. E poi? Mario, it's you! Mamma mia! E poi? E che ne e so? Poi, e poi? Strumenti di tortura. Ah, è giusto, come no? Rinomati in tutto il mondo. Cosa sono gli strumenti di tortura? Il Made in Italy. Ma dico, sai cos'è uno strumento di tortura? Sì. Cioè, di che cosa tu stiamo che parli parlando? Alla radio. Anche. No, finché non viene qualcuno e mi fa il posto e vuole condurre questo programma, io non me ne andrò mai. No, io non ti farò mandare via. Se qualcuno si propone. No, no. No. Perché sotto sotto la tua omosessualità latente prima o poi si rivelerà. Sì. In ogni caso, cosa sono gli strumenti di tortura? Le donne, tanto. Forse le persone non lo sanno, però le torture che immaginiamo tutti sono passate un po' di moda, cioè strappare le unghie. Ah, sì, sono non si fa più. No, non si fa più, fuori. Forse si fa ancora, magari, non so, in Cina o in posti del genere. Vieni catalogato come trash. Come esatto, antico. Come inadeguato a questo ma nuovo Ma che fai? Mondo. Strappi ancora le unghie? Sei proprio inadeguato. Così come non si attaccano più le batterie delle macchine ai genitali delle persone. Vabbè, quella è terribile. Grazie a Rambo abbiamo quella saputo. Quella è terribile. Sì, quella è terribile, certo. Rambo però si ricuciva da solo poi. Vabbè, Rambo è Rambo. Rambo è Rambo. Rambo è Rambo. Salutiamo Adesso, Rambo. Salutiamo Rambo. Anzi, Rambo, se vuoi venire in radio a parlare, a dire la tua, sei il benvenuto. Come sempre. In ogni caso, adesso si utilizzano altre forme di tortura. Maria De Filippi, sì, e i suoi programmi Sanremo. O anche manette elettrificate. Ah, cioè, quindi tu metti le manette, quando non ti va bene che cosa sta dicendo l'interessato, ti dà la scossa. Una bella scarica di 120 volt. Così. E penso che gli fai un parte po' male. Parte la scossa. Così, come e Carlo con la bava Conti, che esce sì. Da... sì, come Carlo Conti, bravo. E gli fai male. E certo. La cosa bella è che noi esportiamo tutta una serie di prodotti che, diciamo così, non si trovano nei migliori negozi. Ma io questa cosa è assurda, cioè l'Italia è il made in Italy italiano. Insieme alla Repubblica Ceca e la Germania. Ah, guarda, due paesi proprio così, neutri. Vada per la Repubblica Ceca, che comunque un po' di problemi negli ultimi periodi li ha avuti, però la Germania... insomma. Sì, vabbè, io questa cosa me lo penso. La denuncia arriva ovviamente da Amnesty International. Perfetto. E parliamo di manganelli arpionati. Manganelli. Non so esattamente a che arpionati. Cosa fosse. Non penso che sapere. Abbiano tipo delle cose per arpioni per bravo, farti molto male. L'etimologia della parola esatto. Ci salve tutto. Cuffie da elettroshock. L'elettroshock nell'orecchio. Sì, è come se noi adesso abbiamo delle cuffie per fare la radio, all'improvviso un centinaio di volte così per così dare una scossa al cervello. Ah, bellissimo, bellissimo. Così, nell'organo uditivo. Manette con scariche elettriche. Ancora. E spray sì. chimici. Chimici. Spray chimici che ovviamente possono probabilmente farti cadere anche la pelle. Madonna, che cosa brutta. E questo è il Made Italy di origine controllata, Doc. Noi abbiamo esportato 50.000 manette con scariche elettriche. E dove sono andate? Non si sa. Non si sa, un po' in giro per il mondo. Ah, scambi illeciti comunque. Scambi illeciti che vanno avanti dal 2006 all'insaputa del governo. Ah, quindi... riferisce Amnesty International, che ha dichiarato di non essere a conoscenza. Ma questa cosa forse un po' puzza. Non solo noi abbiamo qualche dubbio al riguardo. Parecchi, che, insomma, parecchi. Tu Stato non è che fai partire Alessio, 50... Alessio attento a quello che dice, no, perché loro hanno i manganelli arpionati. Hai ragione. Hanno cuffie elettriche, stai attento. Ma noi abbiamo cosa un'altra abbiamo? Arma. Chi? La nostra radio e... la radio delle libertà. Sì, olè. Quindi nessuno può fermarci. Nessuno. Signori, io se vengo arrestato tutto quanto in una casella postale di sicurezza per qualsiasi cosa. 53829. Le persone che partecipano alla nostra radio, ricordiamo che sono tutte cortesemente, sì, tra l'altro, ostaggi dello Stato. Tutti ostaggi dello Stato. Ostaggio dello Stato. Allora, cambiamo notizia, è una un po' più divertente, forse eccessiva. Diciamo che è cronaca. So già di cosa stai per parlare. Io sono tristissimo per questa storia. Allora, pochi giorni fa è deceduto a dell'età veneranda di 22 anni l'uomo più piccolo del mondo. Ping ping. Mamma mia, ping ping. Allora, ping ping. 74 centimetri di puro divertimento. Sì, una valigia a mano Ryanair. Tu lo mettevi in quell'aggeggino che stavi a vedere se lui passa. Lui c'entrava benissimo. Ping ping è diventato famoso grazie al programma della bellissima e simpaticissima e professionista Barbara D'Urso, che presentava. Barbara D'Urso, se vuoi sempre venire qui. Assolutamente, Barbara. Noi qua, a braccia aperte. Noi qua siamo pronti ad accoglierti nel miglior modo possibile. Nel suo programma che presentava l'anno scorso, il Guinness dei Primati, aveva, sì, fatto conoscere al mondo che si è innamorato di questo ping ping, quest'uomo in miniatura, ricordo questa che faceva vedere anche la donna che faceva più rutti. Allora, il programma era il programma più brutto che abbia mai visto. Sì, una cosa... Fenomeni da baracconi online. Mamma mia, cioè, è terribile. Beh, allora, ho visto l'uomo più alto del mondo ed era una cosa che secondo me non può vivere. Il più basso del mondo. E tra l'altro ricordiamo ogni volta che parliamo di quest'uomo io mi sento male. Ricordiamo che ping ping è stato, veniva tra l'altro... preso per in giro come fosse una bambola. Allora, un po' un povero essere di 75 centimetri che si capisce chiaramente che non ha neppure coscienza di esistere. Certo. Cioè, ha chiaramente problemi. veniva messo in ridicolo davanti a centinaia, sì, perché di poi milioni Barbara di D'Urso gli metteva le tette in faccia, faceva e i si bacetti. Vedeva chiaramente che invece gli dava fastidio la sua presenza. Certo, lui stava, giro, lui stava come un pazzo. Cioè, immagina tu, giustamente è una persona che non ha vissuto bene la sua vita, è chiaro. Arriva lì Barbara D'Urso, adatto con bambolotto, se lo mette, fa il seno, che bello prosperoso, complimenti Barbara D'Urso. Quello col cazzetto si attaccava vicino alla gamba, no, come un chihuahua. No, poverino, poverino, poveretto, cioè veniva trattato come così, un fenomeno a baraccone. Il programma era bruttissimo, ho visto persone tirarsi la pelle, la gara di sputo di una donna che ruttava per circa 3-4 minuti. Se vuole venire, 3-4 minuti di rutto, non lo togliamo a nessuno, assolutamente. E lui è morto mentre registrava le nuove puntate del Guinness. Sì. Tra l'altro il nuovo programma non veniva più presentato da Barbara D'Urso, ma un'altra stacanovista del mestiere, una proprio brava, una che ha presentato grandi programmi culturali, la mitica Paola Perego. Allora, Paola Perego, sei uno scandalo, sì, mi dispiace. Sei una bella donna come Barbara D'Urso e come la Gelmini. Guarda, smettila. Ho sentito delle persone che hanno ascoltato la puntata alla radio e mi hanno detto: guarda, sotto tuo consiglio sono andato a rivedere delle foto della Gelmini e sono d'accordo con te. Che bella la Gelmini. Bella è eccessivo. Vabbè. È una bella donna, un po' in là con gli anni. Però... Io ho visto la Carfagna invece. Vabbè. Ah, è bellissima. È la Carfagna. La Carfagna è 1,90 m senza tacchi. Quando la ascolti parlare capisci quanto sia bella. Sì, è più bella che intelligente, come si dice. Sì. La classica frase giustissima. Niente, durante le registrazioni si dice infatti che lui abbia sofferto di cuore, perché lui ha avuto un attacco cardiaco, perché non c'era più Barbara D'Urso, ma c'era Paola Perego, che magari diciamo che non lo trattava come un bambolotto erotico, infatti, come faceva Barbara D'Urso, infatti, che lo prendeva, lo faceva baciare a tutti. Quello era un uomo di 22 anni, aveva... Era un uomo, cioè... Una testa piccola quanto un pugno, quasi. Questa pure è cattivissima. No, nel senso, ha chiaramente dei problemi gravissimi, sì. L'avete ma messo in ridicolo con dignità per 3-4 anni, questo povero Ping Ping. L'hanno sfruttato e niente, condoglianze, ci dispiace tantissimo. Alla famiglia soprattutto. Ciao Ping Ping. Ciao Ping Ping. Andiamo avanti, dai. Per sempre nei nostri cuori. Per sempre, la valigia ma Ryanair. Dai, andiamo avanti, dai, tu, la tua notizia. Questa è una notizia importante. Guarda, perché come no, è una notizia importante. Dimmi. È una notizia importante perché ci dà la possibilità di immaginare un futuro roseo, sì, per tutte le persone che perdono un arto, perdono qualcosa di importante. Ah, ti ricordo il caso di Lorena Bobbitt, che fece perdere al suo compagno delle cose. Il manico. Allora, sì. Ricordiamo, Lorena Bobbitt è il simbolo del femminismo ormai e della malvagità totale. Questo femminismo che ormai non vuol dire più Lorena riprendiamoci Bobbitt... i nostri spazi o portiamo in alto il sentimento femminile, ma vuol dire castrazione. Ecco, ricordiamo che cosa ha fatto Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt ha tagliato il... Allora, facciamo così, tu lo dici, faccio bip oppure... No, dopo arriverò. Allora, okay. Lorena Bobbitt, che succede? È sposata con un uomo, sospetta la sua infedeltà, fedigrafo, e che cosa succede? Che per vendicarsi del suo adulterio, che cosa fa questa bellissima donna? Che fa? Divorzia? No. Che fa? Litiga? Lancia i piatti? No, durante la notte prende un paio di forbici e gli taglia il cazzo. Mamma mia. Dovevi fare mamma il bico, mia. Non l'hai annunciato. Tanto lo prende. Non fa niente, cazzo, le, si può dire. Le prende col cazzo, lo prende questo cazzetto e lo butta per strada. E lo va sull'autostrada, sì. Interstate 66 americana, la butta per strada. E infatti, quando i... Vergogna. Quando i poliziotti l'hanno visto per terra, hanno detto: Oh, mamma mia, hanno detto. Mamma mia, un cazzo qua sulla strada. Un cazzo, così. Chissà di chi è questo cazzo. Quindi, allora, la notizia è... Dai, qual è la notizia? Il Corriere della Sera. Ringraziamolo. Intitola così, ringraziamolo. Topi come lucertole. Togli un gene e ricresce la coda. Ah. In pratica c'è un gene, il P21, che sì, non è quel pullman che ti porta da Casandrino a Poggio Reale. Io voglio sapere se tu veramente hai preso un pullman del genere. No, il P21 penso che non esista. Chiediamo comunque a Roberto Porzio. Anzi, Roberto Porzio, sei ospitato qui nella prossima puntata per parlarci della tua passione per le linee. Sì, Roberto Porzio è espertissimo di queste cose. Ok. Grazie a questo P21. Mettendo succede? KO il P21, sì, che è questo gene, quindi annientandolo, bloccandolo. Adesso sì, io non sono un uomo di scienza, quindi non so di cosa sto chiaramente parlando esattamente. Non sono un uomo di scienza. E, chiaramente. E c'è la possibilità di cicatrizzare, sì, le ferite quasi immediatamente. Quindi futuro sarebbe, esatto, che un uomo che perde una mano per un incidente sul lavoro, fanno questa cosa molto in là. Per molto ora questa cosa là funziona solo con le orecchie che vengono bucherellate ai topi. Ah, però funziona. Ma chi ce ne frega noi? No, è importante perché si pensava che una ricrescita del genere, sì, potesse essere solo possibile non nei mammiferi, ma in specie meno evolute come i rettili. O personaggi simpatici del genere, diciamo, certo, le salamandre. Sì. Bravo, salamandrine. Non sei scientifico, ma conosci benissimo questo. Il mondo animale, avevo un libro animale bellissimo da piccolo, sono cresciuto con quel libro. Gli spettatori saranno felicissimi. Il mondo animale. Gli spettatori saranno felicissimi ad ascoltare questi aneddoti di vita reale di Alessio. Beh, questa è la notizia, niente di più. Ovviamente non è una notizia pienissima. Un notizione. Vabbè. Anche perché una volta che ci siamo giocati ping ping, che è morto oggi, è finita lì. Che brutto, è morto no, oggi. No, è morto oggi. Oh, ping ping. Non è morto oggi. È morto ieri. Sì. Un po' posticcio. Arriviamo sempre tardi, non siamo mai sul pezzo come dei veri giornalisti. Lui però è arrivato. Lui è andato ormai. Vai, notizia mia, un po' più interessante questa. Allora, sei stanco del solito cagnolino? Woof woof. Il gatto t'annoia? Mao. Il criceto è troppo commerciale? Il criceto tipo rosica, quindi fa... Ok. Entra nel business del commercio degli animali esotici. Gli animali esotici non fanno niente, se non qualche serpentino tipo... Potresti comprare un orso bianco, una tigre del Bengala. Non fare più. È divertente. Una tigre del Bengala, o perché no, un alligatore per far divertire i tuoi ospiti. Guarda, lì c'è un rapace dell'Ocrostandon. E guarda lì, nella maschera a bagno, un alligatore del Nilo. Oh, aspetta, non entrare nel bagno occupato. Chi c'è? Una tigre del Bengala. Allora, nel bagno, la tigre del Bengala. Perché anche la tigre del Bengala deve fare le sue cose, no? Ah, boh, ho capito, ma c'è appena messo un caimano nel bagno. E stanno insieme, che cosa vuol dire? Non si stanno mai chiappate le tigre. Vabbè, comunque. Allora, comunque, la notizia è che il business degli animali esotici è cresciuto tantissimo. Ma sì. Sono sempre di più le persone che non vogliono il gatto, non vogliono il cane, non il criceto, non il canarino, ma vogliono le bestie più assurde del mondo. Ma perché? Voglio il drago di Komodo. Il drago di Komodo è proprio un animale schifoso. Voglio un orangotango fuori casa. Orangotango però forse, In gas. Quasi quasi ci penserei un po'. Voglio un dromedario. Dromedario, ci vado all'università col dromedario. Ah sì, e come ci arrivi? Lo attacco fuori a Via Marina. Sì, come no. Col dromedario sei simpaticissimo, secondo me. Comunque, il nuovo business con dei numeri esorbitanti in Italia è sempre di più. E tra l'altro, la caratteristica di questo nuovo business è che i maggiori fruitori di questo business sono i clan camorristici. Perché giustamente. Simbolo di potere. Ricordiamo Scarface. Sì. Tony Montana che teneva la tigre in giardino. Davvero aveva una. Non me la ricordo sta storia. Ah, tu non hai visto Scarface? No, l'ho visto, ma non e mi ricordo. Teneva la tigre in giardino. Sì. Non l'ho visto tante volte. L'avevo visto ecco, due perché volte. Tu hai passato tempo a guardare. Ma non mi piace la violenza. Perché tu guardi il paziente. Mamma mia che film da Sicilia. Ah, Christine Scott Thomas. Anzi, Christine Scott Thomas, sei invitata qui. Se vuoi te lo dico in inglese. Christine Scott Thomas, mamma mia, tu sei invitati nei nostri programmi. Ma falla finita, sei ridicolo. Comunque, che succede? Succede che i boss della camorra, come simbolo di potere, comprano questi animali esotici. Sì. Ultimamente a ottobre hanno trovato a casa di un boss della camorra un alligatore nella una vasca fuori al balcone. È giusto. Che gli vuoi dire? Che lui usava per intimidire e pagare il pizzo. Fa, uè fra, se non pago pizzo ti faccio mangiare l'alligatore to magno con un solo morso. No, l'alligatore non ci mette niente a mangiarsi un cristiano. E quello fuori dal balcone, la vasca da bagno, i vicini saranno felicissimi. Poi i napoletani dai, non è che siamo proprio molto alti, quindi non ci veniamo uccisi, sì, immediatamente. Ci mangia subito. Sì. Stai sfottendo? No, mica te. No, perché tu alti mi Vabbè, tu sei solo diversamente alto. Bravo, sei simpatico. Tu sei diversamente uomo invece. E te la sei cercata. Ancora sta storia. Eh sì. Ancora. Guarda, sì, che la Cassazione ti fa un culo così. Non ho detto gay. Fatta la legge, trovata l'inganno. E allora, ascoltatori omosessuali, gay, venite. Spettila. Qui così facciamo un solo cordone politico contro Riccardo. Allora, lo mandiamo via dalla radio. Tu devi immaginare che un giorno vengono Barbara Curzo, Paola Pere, Antonella Clerici, la mignotta della Daddario. La escort della Daddario. Guarda che la Daddario l'ho vista una volta piangere in televisione. Mi ha fatto una pena. E voleva 100 euro. Ma che pena. Pene. Ma vai a lavorare. Fai a lavorare pure bene, bravissima. Fai dischi, fai libri, hai rotto le... E comunque diciamo che la notizia è questa. Diciamo che hanno trovato per esempio a Scampia, sì, una Bertuccia una scimmia, la Bertuccia, sì. Tu hai presente? Ecco perché si dice, sai, quando le sigarette di contrabbando, bravo, oppure facendo l'erba, il fumo. Sai quando si dice uomo è venuta a scimmia, è quello per quello. C'era la Bertuccia che vendeva 5 euro di fumo ogni volta e gli dava il fumo. La famosissima scimmia spacciatrice del Bengala. Ma sempre tutto del Bengala. Sì, sì, come la tigre, anche Sandokan del Bengala. Giusto, giusto. Questa era molto fine, eh. Questa era fine, il signore qui è un intenditore. Come no, sono pieno di novità, pieno di speranze e di cultura. Vabbè, la notizia è questa, fondamentalmente. Se volete comprare una scimmia spacciatrice, una tigre del Bengala, rivolgeteci al business. Sì, al business. Su internet, una scimmia a 100 euro. Scrivete su eBay, scimmia a 100 euro. Dai, trovate a morire. Una scimmiettina la trovate. Dai, andiamo avanti. Ah, ancora io. Scusa, non ho letto la scaletta. Ah, questa è bellissima. Questa è bellissima. L'articolo, si intitola Sesso neutro. E da qua parte il giochino, perché io la leggerò solo così. Vabbè. Allora, la notizia parla di un certo o una certa, un uno o un'una, signora o signore scozzese, che si è trasferito o trasferita in Australia o Australio. Beh, no, qua no, sbagliato. Vediamo la foto, lui è veramente brutto o brutta. Brutta. Praticamente, che è successo? Questo signore o questa signora aveva cambiato sesso da maschio a femmina, o da femmina a maschio, non si sa. Ed è andato in Australia. Sì. Andata in Australia. Sì. È arrivata lì, o arrivato lì, si è sentito un po'. Sentita un po' inadeguato o inadeguata riguardo a questa questione del sesso. E si chiedeva: ma io chi sono? Sono uomo o sono donna? Sono donna o sono uomo? Che cosa sono? E lui ha deciso, allora ha chiesto all'Australia, signora Australia, al governo australiano, al re dell'Australia, al sindaco di Australia, al sindaco d'Australia, ha chiesto se poteva, se poteva, mamma mia, se dai, poteva avere sesso non specificato. Così. Così, lui nella carta d'identità, sesso non specificato, perché si sentiva più a proprio agio. Giustamente. Questa notizia è bellissima. Quando non ti riconosci né da un lato né dall'altro, né in quello di mezzo, qualcosa lo sei. Cioè, ma infatti è complicato. Cioè, se eri uomo hai cambiato donna, se eri donna hai cambiato uomo, comunque alla fine un risultato ci sarà. Sì. Tra l'altro, il risultato è brutto a guardare la foto. Brutto o brutta, dipende. Brutto. La cosa bella è che il governo australiano, dall'alto della qualità del governo australiano, ricordiamo Mr. Cochrane, gli avrà detto: tu sei uno scozzese, che diavolo vuoi da noi qua? Ma tornatene in Scozia a fare ste magagne. E invece no. Lui sa che ha fatto. Ha deciso, nel dubbio, perché tra l'altro ha deciso, gli hanno accettato questa in cosa. In un primo momento. No, sì, fammici arrivare. Lui hanno accettato questa cosa. Poi che è successo però? Giustamente qualche genio ha detto: scusate, ma non si può fare questa cosa. Ma non è possibile, non si può fare questa cosa. Non esiste un essere che è come le Barbie, che non ha sesso, che c'ha la mutanda cucita sulla pelle. Non è possibile, o sei uomo o sei maschio, o sei maschio o sei uomo o donna o femmina o bambino o quello, bambina, o quello tutti che quanti. Sei, o quello che sei. Un trans, o una trans, non so come si dice. Come si dice? Unitrans, università nuova. No, e comunque, che è successo? È successo che l'Australia ha subito ritirato questo documento. Sì. Giustamente perché non era possibile non qualificare una persona. O sei uomo, o sei donna, o sei donna, o sei uomo. Salutiamolo e salutiamola, se vuole venire. Ciao. L'accoglieremo o lo accoglieremo. Assolutamente. Mettiamo l'accoglieremo con l'apostrofo, così, così dubbio, così non neutro. Ci sono problemi. Arrivederci. Allora, vai. Questa è una notizia difficile. Vai. La prossima notizia invece è proprio da film d'azione. Sì, un film di Quentin Tarantino. No, più secondo me da John Woo. John Woo. Proprio azione, roba di sparatorie, mitra. Proiettili vaganti. E dov'è l'ambientazione? Ovviamente, John Woo, poi parliamo sempre di colombe che volano dappertutto. Sì, colombe per far vedere che siamo degli intenditori. Sì, John Woo ha colombe ovunque. E dov'è il... A Pozzuoli. Ah, come a Pozzuoli? In un mooling a Pozzuoli. Un film di John Woo. In via Campana. hanno un bullying a Pozzuola in via Campana. Ci sono arrivati 7 armati. Sì. Con i passamontagna. E hanno iniziato a sparare in tutto il bullying. Veramente. Davvero. Hanno fatto sedere le persone che erano nel bullying su dei tavolini oppure sotto dei gli tavoli astanti. Da biliardo. Sì. E hanno iniziato a distruggere tutto. Veramente. Davvero. Hanno distrutto tutto. E hanno alla fine dato fuoco a tutto. Ma uscendo, che non si capisce. Forse un'intimidazione della camorra. Si pensa che sicuramente possa essere... non preti, diciamo così. Sicuramente non preti, anche se preti ultimamente, ultimamente con questa storia della pedofilia. Vabbè, quella è brutta. Sono abbastanza violenti. Vabbè, diciamo. Forse comunque era un messaggio intimidatorio. Molto alla John V con le colombe che volavano dentro il bullying in di Pozzuoli. In ogni caso la gente ha avuto molta molta vedi paura. Tu stai giocando a bullying. Ah, ho fatto uno spare. Ho fatto uno sprint. Vai, lancia! Oh, è andato nel corridoio! Esatto. Arriva uno! Così. Con le colombe che volavano. E insomma, fa male. Brutto, brutto. Napoli è sempre scena di queste brutte cose. Ci mancava Napoli scena di film di John Woo. Napoli violenta. Napoli violenta. Allora, vai, un'altra notizia molto importante. Sì, un po' così. Un po'. Dobbiamo farla un po' così. Sì, un po' così. Rabanelli, Piselli. Dai, perché così? Perché si è deciso di utilizzare una droga abbastanza conosciuta. L'oppio, il padre dei vizi. L'oppio. Per poter aiutare le donne in sala parto che stanno per partorire. Ah, come un nuovo tipo anestetico. Invece che l'epidurale le fanno fare con delle pigne. Sì, una piccola pippatina d'oppio, una sfumacchiatina d'oppio per permettere alla donna di rimanere sveglia mentre partorisce, però senza subire il dolore. Signora, è nato suo figlio, come la chiama? Rabanelli, Piselli, Spinaci. Come lo chiama? Non lo so come lo chiama, allucinogeno. Noi consigliamo alle mamme che si prestano a questo tipo di anestetico di scegliere il nome del figlio, quindi prima di partorire. A te escono figli con nomi inguardabili. Sì. Fammi chimica, lo posso chiamare Fammi chimica? Hendrix, io lo chiamerei Hendrix. Hendrix Strazzullo. Mamma mia, che nome di merda. Cioè, è rovinato. Stai un bambino. Il nome della mia famiglia, però. Senti, quando lui. Mio padre si chiama Hendrix. Ma falla finita, non è vero. Quando io conosco il tuo figlio, fa: come ti chiami, bimbo? Mi chiamo Hendrix. Cioè, è rovinato. Bravo, è rovinato. Comunque, mi raccomando, scegliete il nome prima perché altrimenti nomi improponibili. Occhio alla fame chimica post parto. Io questa cosa non la conoscevo, però. La fame chimica post parto. Tu immagina tutti quanti in questa sala parto. Sì. Tutti quanti con gli occhi rossi, con le patatine in mano e fanno l'operazione. Scusami. Ma ti immagini del figlio esce con 4 braccia? Wow. Ti immagini questa scena di strafatti? No, speriamo piuttosto che a qualcuno non prenda male. Insomma, ehi, perché... ehi, lo senti questo rumore? Io te lo senti. Te ne immagini questa scena? Oh mio Dio. Ma sta uscendo un bambino da quella donna. Queste sono tutte esperienze da fattone veramente vissute da Riccardo Cremona. L'ultima no. Che ha avuto un trascorso abbastanza violento. L'ultima no, non ho mai visto un bambino uscire dalla donna mentre stavo strafatto. Beh, siamo arrivati alla fine delle nostre notizie. Non uso droghe comunque, non uso droghe. Oggi non abbiamo il blocco musicale, lo sai? No, perché... Però, abbiamo il blocco musicale. Ma è un blocco musicale molto particolare. Come l'hai preparata bene questa notizia? Benissimo. E che cosa c'è oggi, dimmelo? Siamo sotto elezioni. Sì, abbiamo un inno. Sì, perché ricordiamo che noi qua in trasmissione abbiamo spesso ospite un partito o diciamo sì, un candidato con la sua schiera. Partito che io non condivido, tu un po' di più. Ascanio Mummolo con esatto. La sua schiera, la sua loggia, ma preferisco questo termine, che ci ha mandato in settimana il suo inno e finalmente abbiamo l'inno del partito che non so ancora come si chiama, tra l'altro quando ne parleremo, perché dopo parleremo con lui, glielo chiederò perché sono un po' curioso. No, ma tutti siamo curiosi, siamo tutti estremamente curiosi di ascoltarlo. Quindi ascoltiamolo, vai. Ok, lasciamo il microfono aperto. Che bella musica. Perché dobbiamo discuterne. La musica è bella. Campagnola, sì, direi. Una quadriglia. Ascoltiamo un po'. Carino. Gente per noi, gente per voi. Oh. Servono tutti. Ascanio. Fantastico, gente per noi, l'inno. Il ritmo, cioè. Ringraziamo tutti il Papa. Ringraziamo il Papa. Io amo Corona. Ma che inno è? Bernardo, vieni qui. Dio santo. No, ma non è proprio la bestemmia. Nell'inno ci sta. La bestemmia nell'inno. L'imprecazione. Venitene, mummole. Questo mi sa tanto di messaggio subliminale. Sì, infatti. Mummolo. Vota mummolo. Mummolo. Vota mummolo. Oh, c'è il ritmo però, eh. Mummolo. Mummolo. Sei incantato, sei incantato. Mummolo. Manca Bernardo Ciociaria, tra l'altro. Ci ludiamo, si fa i fatti sua. Le uacche colorate. Che era la sua idea. Una serie di suoi un po' viola, un po' azzurro. Era il suo motto, ricordi? Le uacche. Fantastico. I giovani di 40 anni. C'è l'eco. Ah, dei professionisti. Che bellino, nuovo. Mummolo. Di nuovo. Mummolo. Dai, anche mixato. Mummolo. Gente per noi, gente per voi, servono tutti. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, l'inno è bellissimo. Ma meraviglioso, ma quasi quasi devo rivalutare la figura di Ascanio Mummolo. Bellissimo. E di anche di Bernardo Ciociaria, che comunque già mi sta più simpatico. Di Mummolo? Di Mummolo, sicuramente. Ma tu ce l'hai a morte con Mummolo. Ma è un problema di affinità politica, non ci siamo. Politica anche morale, perché Mummolo però diciamo che... gli farò i complimenti sicuramente. Infatti, per l'inno. Voglio proprio sentirti, eh. Tieni la parola perché l'abbiamo in diretta. Pronto, Ascanio? Che cosa ha detto? Pronto? Pronto? Ascanio? Ascanio? Ascanio? Ascanio? Chi ha lasciato il telefono qui? Ascanio? Ascanio, l'abbiamo chiamato prima. Pronto? Ascanio? Ah, buonasera. Ma a buonasera tutto cosa? A posto? Chi è? No. Siamo i due coglioni di Radio 22. Ah, parla per te. Ernesto Evaristo, buonasera. No, no. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ma se noi siamo i due coglioni? Sì. Lei? Io sono la figura stante, quindi sono tipo l'andrologo. Cioè. L'andrologo. Signor Mummo, io non la sopporto, lei lo sa, però le devo fare i complimenti per l'inno. Ah, l'avete sentito? Bellissimo, sì, bellissimo. Sì, bellissimo. Sì, bello, sì. Complimenti, complimenti. Sì, sì, sto parlando anche con altre radio per mandarlo. No, come altre radio, no? No, nel senso farà diventare una hit parade. Perché lei sta in campagna elettorale e non deve sottovalutare, si stava spaccando qua un attimo la nostra strumentazione. È fatto di merda. No, lei che ne sa. Le stiamo dando comunque una grande possibilità a parlare adesso. Ecco, stavo dicendo, lei le diamo una grande possibilità, perché lei, non so, sicuramente sarà informato che adesso non ci sono più i talk show sì, televisivi. È uno scandalo, guardate, non c'è più il confronto, non posso più mandare a fanculo un altro che un deficiente. Non è un confronto se mandi a fanculo uno che pensa di essere deficiente. Scusi, io mi confronto con lei, la vado a fanculo, mi stiamo confrontando. No, se lei mi offende, mi sta guarda, offendendo. Io questa volta sono quasi d'accordo con lui. Perché? Perché la sua logica ferrea mi Il confronto così. No, il confronto si fa così, ha ragione. Quindi adesso la nostra radio... Sì. Lei può fare quello che non faceva in televisione. Ah, perfetto. Anche perché la televisione non è che mi piace tanto. Ah, non le piace la televisione, no, preferisce la radio. Sanno quei programmi un po' brutti, tipo... come si chiama? Le due porte. Porta a porta. Con quello là Bruno Vespa. Sì. Vespa, è in effetti. Sì, sta bene di lei. Cioè, sembra uscito la settimana enigmistica, unisci i punti. Sì, ma... bravo, la settimana unisci i punti. Non è che lui che ha i nei, è i nei che hanno lui. Sì, esatto. Lui è un neo con un po' di carne. Facciamo entrare il plastico, sai, come porta a porta sì, è sempre il plastico sì, fisso. Sì. Vabbè, l'altra, parliamo dell'altra sponda, per esempio. No, a parte che gay, non so se lo sa, da oggi in poi è reato offendere qualcuno con gay, con la parola gay. Ah, ho capito. Quindi dovrà cercare quelli un'altra parola. Quelli lunghi di orecchie, va bene? che simpatico. Che arguzia. No, parlavo di Mediaset. Lei non faceva piacere andare a Matrix. Non so se le conosci. Guardi, Matrix, da quando ha lasciato Mentana. Mentana, salutiamolo. Ciao Enrico, sono andato l'altra volta in trasmissione a lui. Ah, perché... vi conoscete? Sì, perché ha questo blog che permette di parlare. Lui, sì. Quindi lei il tradisce. Mentino, come lo chiamo io. Il mentino. Sì, lei chiama... il mentolo. Il mentolo, sì. E beh, mi stava dicendo, non le piace il nuovo presentatore? No, non mi piace, non lo so, un po' cretino. Il belloccio. Sì, poi sta troppo sotto lo schiaffo. Ah, troppo sotto lo schiaffo. Di chi? Di gente un po' così, diciamo... del partito che va contro di me, vai. Ah, contro. Ah, addirittura vanno contro, forse hanno paura. Hanno paura di questa nuova figura. Sì, avete paura. No, siete cagne. No, calma. Avete paura, io sono il cane madre. Il cane madre. Questo uomo ormai è pazzo. Cagne. Cagne. Vi sculaccio, cagne. Basta, il cane madre. Questa non l'avevo mai sentita. Si diceva cane alfa, il cane no, madre. No, il cane madre, perché come tipo... L'astronave madre. Sì, mo si porta tutte queste cose in fantascienza, Favatar, quelle cose così. Sì, cane il madre. Il pianeta di fave. No, Favatar non è il pianeta delle fave. Ah, non l'ho visto. Vabbè, neanche noi. O forse ho visto un porno e mi hanno detto che si chiama così. Che Avatar si chiamava il porno? Il porno no, di ho visto Favatar. Ah, visto un altro. Tutte fave. Ah, okay. Tutte fave, che bel film. Sì, sì, al fine film alcuni morivano, nel senso che venivano aperti. Ah, okay. Un filmone, ha vinto l'Oscar. Signor Mumolo, noi siamo quasi arrivati alle... Ah, alle sei lezioni. Quasi arrivato, che alle... schifo. No, non faccia questi giochini di parole. Alle elezioni. Alle elezioni. Sì. Come va? La campagna. Come stiamo andando? Ci stiamo muovendo in diversi fattori. Stiamo cercando di prendere altre persone. Noi abbiamo sentito Bernardo Ciuceria. Simpaticissimo. Sì. Ciuceria è un grande uomo. L'ho conosciuto in una fiera. Una fiera? Di che sì. Cosa? Dai, mi trovai lì per sbaglio perché bucai una ruota e sentì questo comizio di questa persona. Mi piacque molto, le sue idee rivoluzionarie. Rivoluzioneremo il mondo assieme a lui. Mi ha preso proprio dal fuoco sì, interno. Sì, tra l'altro adesso vive in una delle stanze di Reggia Mummolo. Ah sì, sta con lei, perché sì, così sì. Preparate insieme il programma. E che cosa fate insieme? Tutti i miei parlamentari dormono qui. Ah, okay. Tutti quanti. Come se fosse un re, praticamente. Lei è un sovrano, lui ha il Parlamento, praticamente. Sì, no, è questo, però ovviamente è come... E che cosa fate, tipo, nei momenti morti della giornata? A volte giochiamo a scopone. Ah, in due? No, sono un sacco. Ah, ok. Facciamo i tornei. I tornei di scopone. Lei gioca in coppia con Bernardo? Spara al nero, cioè tipo... Lancia... No, signor... No, come lancio il nero come il piattello e fanno pull e sparano? No, il piattello nero, non è... Ah! Con una faccia di qualcuno sopra. Ah! Di chi? Dipende, disegnati, dipende. Per esempio? Di neri famosi posso nominare Obama. Questo silenzio inquietante. Lei aveva detto di averlo conosciuto Obama nella prima puntata. Però ha detto era solo abbronzato, non ha detto nient'altro. Lei è simpatico Obama? Com'è? Obama. Chi è? Come chi è? Signor Mumolo. Cioè, una delle persone più importanti al mondo, il presidente degli Stati Uniti. Si ricorda quello Yes We Can? Se vuole andare a fare un weekend fuori. No, weekend era il suo motto. Perché non le piace? Sì, per i fine settimana, d'accordo. No, cioè, d'accordo. Weekend vuol dire noi possiamo. Chi può? No, noi gli elettori, capito? I suoi seguaci. La frase era propositiva per il futuro. Noi possiamo. Vabbè, sì, comunque è un uomo che fa il suo uomo. È entrato adesso piano piano. Si sono presi prima, sono passati da varie fazioni. Piano piano, è soltanto ha ma cominciato a presentare. Io oggi volevo difenderla. Varie conquiste. Volevo difenderla, ma lei come al solito si dimostra essere un caprone. Da, smetti. No, caprone, un faccio caprone. Con Bernardo Ciceria, no. sa parecchie cose. No, un caprone, Alessio. Lei non è una cagna Alessio. Madre, un cane madre. Siete tutte cagne! Per favore. Lei non è un cane madre. Allora, scani. Lei è un esibizionista. Lei è una pecora. Ecco. Faccia me. Ma che modo è? Basta. Io le do dell'esibizionista e lei mi dà della pecora. Pecora. Guarda, bambini. Pecora. Sembrate due bambini. Ragazzi, guardate qui, c'è un branco di pecora. Allora basta. Ascanio, ci passi Ciociaria, ci passi Ciociaria per cortesia. Vogliamo parlare con Bernardo Ciociaria. Sì, vabbè, non lo chiamo un attimo. Bernardo! Cioè, vieni che solo tu ci puoi parlare con questo gregge di pecore di merda. Ecco, la colpa tua, lei. Vai. Un momento. Buonasera. Salve Bernardo. Oh, buonasera. Come sta? Come va? Ma chi siete? Siamo quelli di Radio 2010. Quell'altra volta. Ah, ho capito. Io l'altra volta ho acceso l'u radio, però non ho trovato la sintonizzazione giusta. Perché noi siamo su internet. Su che? Su internet. Internet. Che cos'è? No, come che cos'è? Lei deve conoscerlo internet, cioè... Si sta candidando, deve conoscere la realtà internet. L'era multimediale, il www. Buchi? www. È un verso di qualche mucca? No. Un poco strano? No, la mucca multimediale. Se gli serve una mano, io conosco tanti veterinari. Anche bravo. Come ricordiamo, Giovannino lo veterinario. Lui ci ricorda sempre questi negozietti di questo paese. A Piazza Lubacchio. Piazza Lubacchio. Ah, che ricordiamo che c'è lei... Tiro Lubacchio. C'è Piazza Lubacchio. Che tra l'altro... C'è Tiro Lubacchio. Che sono due... Due fazioni, sì, Tiro e Lubacchio. Sì, infatti abbiamo le due squadre diverse, tipo come l'U Milan e l'U Inter. Ah, avete il derby? Sì, l'U Tiro e l'U Lubacchio. Avete il derby? Sì, sì, uno tiene disegnate tutte una serie di macchie, tipo le vacche. Sì. Colorate, okay. Una tutta viola e l'altra invece ha sempre le vacche, però sono tutte azzurre. Ma che cosa stiamo parlando? E maglie delle squadre. E qual è la più forte? No, quando c'è il ritorno invece, come fate? Che non è più Tiro Lubacchio, quello... ma è Lubacchio Tiro. No, quello lo chiamiamo sempre Tiro Lubacchio, però okay. Scriviamo sotto in casa e fuori casa. Questa è buona questa cosa. Anche perché alla fine ha molto significato questo in casa, perché alla fine si gioca tutti quanti fuori lo cortile di Giovannino, che è quello grosso. Ok. C'è il cortile grosso, sì, dove si può giocare. Sì, sì. E mi dica una cosa, qual è la squadra più forte, quella di Tiro o quella di Lubacchio? Ma le Tiro sono tutti uguali, anche perché poi alla fine, non avendo molti giocatori, perché di giovani purtroppo ne abbiamo un pochini pochi. C'è qualcosa di sottofondo. Non riesco a sentire che c'è una musica. Che cos'è? Scusate, è lo cellulare. Ma chi la chiama? Lo chi la chiama? Cellulare. Ma non lo so neanche tanto usare questo qua. Se voi siete, quanti anni avete? Io come quanti anni? Io 24. E io 23. Oh mio Dio, siete delle bambini. Ma come ci fate dall'altra parte del microfono? Piccoli. Ma no, non siamo piccoli. Venite qui, vi faccio giocare con la gallina. Fa le uova fresche. Fate lo buco sopra e lo buco sotto, ve lo bevete. Perché, ma scusi. Ma un buco sopra e un buco sotto cade tutto a terra. No, perché quelli io non lo so, non sono molto fisico. Però se fai solo lo buco sopra non scende niente. Ah, perché c'è l'aria. Ah, è l'aria, capito? Vecchie cose di contadini. Sì, però la cosa bella è che li volete l'uvetti belli? Ecco, la cosa bella è che a Tiro Lubacchio i ragazzi di 23 anni e 24 sono dei bambini che bevono che giocano con le galline. Che facciamo? La facciamo cagare questa gallina? No, per favore. Due uvetti belli caldi freschi, li volete? Non ho parole, guarda. No, allora, noi siamo adulti e vaccinati. Vaccinati. Già vi hanno fatto tutte le vaccinazioni, come sì, Lucane. No, come Lucane, anche io e Lucane, detto io. Non come il cane, anche gli uomini fanno le vaccinazioni. Poi tra l'altro è un modo di dire, adulti e vaccinati, dire che siamo adulti. Non siamo dei bambini, a questa età noi siamo già dei la uomini. La gallina me la mangio nel io. Nel resto del mondo occidentale. Le galline pure noi ce lo mangiamo, le galline. Il pollo. Si tira l'ugolo, fa tra, e l'ugolo, lo gallino fa... Lo gallino. Però lo sapete che a volte le galline non muoiono subito? Che grande interessa, mamma mia. Lei dovrebbe condurre un programma, signor sì, Ciociarino, di cultura. Che fare il ministro. Ma come sta andando Voyager. La campagna elettorale? Sta andando bene, sta andando molto bene. Sta girando per i paesi. Sì, per ora abbiamo fatto Civitello Balsamo. Civitello Balsamo. E abbiamo tentato di pittare i piccioni. Le piccioni. Ah, però non è stato facile prenderli. Lì non ce l'hanno le vacche, no. Civitello Balsamo non hanno la vastità di vacche. La vastità di vacche. Ma è sceso anche al sud, perché stiamo parlando tanto di paesi del nord. È venuto qua al sud, che ne so, a Castelvolturno. Ha saputo a Castelvolturno hanno trovato quella spiaggia? Ah, uccidevano i bovini. Come no, i bovini, ha detto. I bovini, le vacche, i bufali. Sì, i bufali. Quelli evidentemente non erano tanto buone, sa? Come te ne accorgi che un bufalo non è buono? Infatti, l'assaggi. Gli metti l'udito nell'uovo. No! Ok. Ma poi l'udito, questo è un culo, cioè, il braccio al massimo. No, l'udito. Solo il dito. Sì, l'udito. A modo per controllare, così. È giusto per come vedere. Quando controlli se l'acqua è calda, metti il dito. No, come quando tipo, non lo so, per spiegare, metti l'udito nel formaggio per vedere se è buono. Ma un attimo solo, ma quindi, cioè, che cosa ci sta dicendo? Che lei poi una volta che ha tolto il dito da lì, lo lecca pure questo dito? Dipende. Come dipende? Cioè c'è chi lo sa fare anche senza leccarlo. Esatto, e quelli sono gli esperti di Tiro Lubacchio. Che però hanno fatto la gavetta leccando dita messe nei ghiani. Volete un poco di cioccolata? No, grazie. Andiamo da Lupalberto. Ah, Lupalberto, il famoso. La cioccolateria, pezzo di Tiro Lubacchio. A me mi fa morire. Vabbè, guarda. Speriamo di poterci collegare ancora, perché noi questa campagna elettorale sta andando al termine. Parlare però, meglio. Però parleremo ancora perché io ho tante anche idee per quanto riguarda la salute delle persone. La salute in che senso? Vuole fare un saluto? No, la salute. Come stai? Salute. Ah, mi sento bene. La mattina salute. Sono andato bene di corpo. Ragazzi, la frase di un vecchio. La salute. La salute è più importante. È sempre, dicono sempre tutti. La salute prima di tutto. Vuole dire che qualcosa? Cosa vuole dire? No, stiamo facendo dei progetti assieme a Mummo Lascanio. E sì, Mummo Lascanio. Siamo così, stiamo vedendo un paio di cose per e la ci salute. Vuole dire uno di questi progetti in anteprima? Ma dai, tipo, innanzitutto siamo scopa! No! No, ma come stanno giocando a scopa mentre lui parla? Lascanio? Mummolo? Per cortesia. Ah, facendo per cortesia. Litigano. Allora, no, stavo pensando per quanto riguarda la salute delle persone, innanzitutto di levare, diciamo così, questi grossi, enormi cassonetti dello spazzatura. Ah, e dove la buttiamo? Cosa ne facciamo dell'immondizia? Questo stiamo ancora ragionando. Ma no, però, scusi. Però per una questione igienica, tutti questi cassonetti enormi con tutta questa spazzatura, poi io so che nelle città un po' più grandi di Tiralubacchio ci stanno addirittura due cassonetti in mezzo alla strada. Sì, a Napoli, per esempio, siamo cassonetti dappertutto. Napoli è enorme. Penso che ne siano migliaia a Napoli. Addirittura? Giustamente l'immondizia dove la buttiamo? Voi dove la buttate l'immondizia? Cioè, ho detto, su questo ci stiamo ragionando. Pensavamo di fare tanti falò. C'è un volta modo l'anno di dire, c'è un problema solo se c'è una soluzione. Quindi lasciamoli lì i cassonetti. Ma queste sono le persone un poco più antiche di destra. Infatti noi stiamo andando avanti, diamo prima, diciamo così, una soluzione, e poi vediamo se c'è il problema. Mi sembra l'immondizia nel frattempo dove la mettiamo? Vediamo dove sta. Va bene, allora grazie, la prossima volta ci ascolteremo. Ci saluti lei, Ascanio Mummolo. Grazie, grazie mille. Non volete niente? Un poco di cioccolata? No, sta cioccolata. Luvetto, la cioccolata. Guardate, vi posso dire che tengo un formaggio di lupecuri. Dei lupecuri? Dei pecuri. Bellissimi. Sono proprio da vedere, sono molto belli. I formaggi sono belli, i pecori. No, i formaggi si mangiano, i formaggi. Le pecore non si mangiano, le pecore si fanno le pellicce, si riempiono le uscine. La famosissima pelliccia di pecora. Va tantissimo quest'anno. Solo altri lubacchio, però. Sì, perché poi quest'anno, come ho detto io, ho fatto quest'anno le pellicce colorate, però vanno bene. Vabbè, allora ringraziamo, ci saluti Mummolo. Arrivederci. Arrivederci e grazie mille. Buona giornata. E allora adesso abbiamo finito, puntata di oggi finita. Sì, è stata un po' stanco, ad essere sincero. Perché abbiamo cambiato postazione. Sì, adesso siamo in piedi. Stiamo registrando. Facciamo in piedi. La radio in piedi. Sì. Abbiamo della nuova strumentazione. Questo microfono è bellissimo. Spero che voi apprezziate. Tra l'altro, voglio sottolineare che quando Alessio ha visto la postazione in piedi, ha detto: no, io in piedi non ma ce la faccio. Stava tanto bene seduto. Sei un pigro e vecchio, o soprattutto vecchia. Vecchia. Sei una vecchia gallina. Una vecchia gallinu. Gallinu. Come diceva Bernardo Ciociaria. Come dice Bernardo Ciociaria. Vabbè, partiamo subito con i saluti e salutiamoci. Vai. La marcetta. La marcetta è bellissima. Chi ci scrive? Ci scrive Tiziana. Tiziana. La nostra carissima ascoltatrice. La Tiziana. Migliore. Tiziana, io voglio te in puntata. Lei è fidanzata, come, ricordiamolo. E chi se ne frega, non è un quindi, appuntamento. Quindi insieme a Barbara D'Urso, la Dadda. No, voglio lei qui. Ah, ospite. Sì, ma no, voglio lei. Ma che cosa avete capito? Ma poi Carlo è un altro nostro ascoltatore, il suo ragazzo. Ma non tanto si possono dire queste cose. I nostri migliori fan. Quindi, allora, Tiziana e Carlo, siete obbligati a venire una volta a Napoli. Venite a fare una puntata con noi in radio. Vi fai così risate. Tiziana può parlare con Ascanio Mummolo in diretta. Lo conosce in diretta. Finalmente. Insomma, accogliete questo invito. Dove? Venite, a braccia aperte, vi aspettiamo. Dove possono contattarci i nostri spettatori? www.radio2010.com. Mi raccomando, scriveteci molti. Per noi qualsiasi cosa che mettiate la metteremo. Non mi stancherò mai di dirlo. Siamo rovinati, ragazzi, ma perché non ci date una mano? Dateci una mano. Non fare l'elemosina, però. Dateci una mano. Sempre una certa... Sì, però... Mantieni una certa posizione. Ci sentiamo soli. Allora, salutiamo il nostro DJ in regia. Ciao Corrado. Buonanotte. Salutiamo le macchine, che tu non piace questo termine. Fabio Milano. Grazie. Fabio Milano, l'uomo dell'anno. Ci ha fatto un segno tipo da militare, sì, sembra la Top Gun, era bellissimo. Chi lo pare sullo scemo, ma è un se grande. Ma tipo l'immagine americana, ciao. Oh, e salutiamo Giulio Petrafesa che ci ha raggiunto ora. Ciao Giulio, che applaude, senza fare rumori, giustamente. Sì, bravissimo, siamo in radio. L'ha fatto un poco, non verrai più per questo motivo. E niente, da Riccardo Cremona e Alessio Sazzullo, ciao. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10